Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti dal Salone del Libro di Torino. Siamo al Padiglione 2 e stiamo trasmettendo in diretta. Bene, ormai il Salone è diventato anche qualcosa di gastronomico, perché se uno fa un giro tra gli stand vede che ormai libri di gastronomia, libri di vino, libri di cucina, ricette sono un po' ovunque. Quindi sicuramente anche il cibo ormai è seduto al tavolo della cultura. E soprattutto della cultura, perché nei prossimi giorni, addirittura il 21, ci sarà una grande manifestazione su tutto il territorio nazionale sulla cultura del vino, che è promossa dall'Associazione Italiana Sommelier. E proprio per questo oggi vogliamo fare una trasmissione su una professione che negli ultimi anni è veramente cresciuta, e oggi non so quanti sono gli iscritti, poi lo vedremo, ma anche perché sta dando lavoro a moltissimi giovani, appunto, appassionati di vino, la professione di sommelier. Ebbene, noi oggi sentiremo dei professionisti, ma anche degli appassionati su questa professione, e chiederemo loro come si diventa sommelier, quali sono le doti che ci vogliono, quanto si guadagna, se è una professione del futuro. Quindi credo che sia molto importante andarla a approfondire. Chi volesse anche intervenire via telefono 800 24 00 24. Ebbene, siccome siamo a Torino, abbiamo invitato dei sommelier torinesi, però devo dire che poi avremo anche al telefono il campione del mondo dei sommelier, quindi ci faremo dire anche da lui come si diventa campioni del mondo di sommelier e cosa significa questo titolo. Allora, Mauro Carosso è un sommelier professionista e rappresentante dell'AIS a Torino, e voglio subito chiedere a lui, come delegato di Torino, qual è il numero più o meno in provincia di Torino dei sommelier professionisti? In provincia di Torino i sommelier professionisti sono circa 200, invece gli associati alla nostra associazione come sommelier appassionati, diciamo così, a livello regionale, il conto si fa a livello regionale, siamo 2500. Quindi un bellissimo numero, è cresciuto quanto negli ultimi anni? Ma cresce, diciamo, ogni anno, perché noi organizziamo a livello piemontese continuamente dei corsi. I corsi sono divisi su 3 livelli e quindi ogni anno abbiamo di nuovi iscritti che vanno poi a compensare quelli che ovviamente magari non rinnovano la quota associativa. Quindi i parametri numerici sono un po' questi. A livello nazionale siamo 30.000 iscritti all'Associazione Italiana Sommelier. Senta, quanto guadagna un sommelier professionista in un ristorante? È una domanda difficile. È un po' difficile perché, insomma, è soggetta a diverse interpretazioni anche alla finalità del locale stesso. Forse Luca che bene, lavora... Luca Cossu, che è un sommelier professionista in un ristorante, nel suo ristorante, quindi. Sì, e quanto guadagna un sommelier? Beh, lei se lavora nel suo ristorante, quindi non è che si fa lo stipendio come sommelier. No, io posso dirle che cosa guadagnavo più o meno 5-6 anni fa, quando ero dipendente di un ristorante come sommelier, grosso modo sui 1500 euro. Ecco, la differenza tra sommelier professionista e sommelier, diciamo, appassionato, qual è? Che uno deve avere un lavoro, cioè deve essere, diciamo, assunto in qualche ristorante, oppure quali sono, appunto, le differenze? Ma forse anche il diventare professionista è un percorso, è un arrivare in un punto. Poi è chiaro che se uno ci lavora tutti i giorni con il vino, è forse quello che vuol dire professionista. Ecco, un tempo probabilmente fare sommelier era anche abbastanza facile e probabilmente ci si arrivava velocemente. Oggi è così? Beh, no, da quando esiste l'associazione il diventare sommelier è sempre stato un percorso impegnativo attraverso i corsi, quindi questi 3 livelli preparano le persone per l'esame finale. Poi chi lavora direttamente nel settore, così si identifica il sommelier professionista, ha questa qualifica, perché lavora nel vino, lavora direttamente nel vino, gestisce il vino tutti i giorni nella ristorazione, nelle enoteche, nei wine bar. L'appassionato cosiddetto, che è la quota maggiore della nostra associazione, sono tutti quelli che per un percorso di cultura e soprattutto di approfondimento del mondo del vino hanno frequentato i nostri corsi, e molte volte molti di loro poi arrivano addirittura a cambiare professione per esercitare il mestiere del sommelier. Sentiamo Aldo dalla provincia di Padova, un radioascoltatore. Buongiorno Aldo. Buongiorno, io sono titolare del ristorante Letizia Due Carare. Senti una cosa, la professione di sommelier è straordinaria, sono delle persone straordinarie che hanno una conoscenza veramente grande del vino, e sicuramente è una professione che troverà spazio nei prossimi anni, però bisogna far conti anche con la crisi che colpisce la ristorazione e colpisce anche il vino, perché adesso la gente al ristorante non beve più, non beve meno, insomma, no, non è che non beva più, beve molto meno, e di conseguenza per il ristoratore assumere la figura del sommelier è un impegno economico, anche perché meritano tutto quello che chiedono, perché hanno una conoscenza straordinaria. Io ho avuto modo di conoscere dei sommelier straordinari, anche gli amici Laimo delle Calandre, Massimiliano e Raffaele hanno un sommelier straordinario, ma anche altri locali di livello, e sono convinto di questo, insomma, solo che c'è la crisi, che bisogna fare conti con la crisi. Bene, grazie Aldo dalla provincia di Padova. Ebbene, abbiamo con noi ora in linea il campione mondiale dei sommelier. Buongiorno Luca Gardini. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Luca, allora hai sentito, rivolgo proprio a te che sei campione del mondo dei sommelier questa domanda, ma con la crisi sarà veramente sempre più difficile permettersi in un ristorante un sommelier? Diciamo sì e no, diciamo, la crisi ha condizionato molto il fattore sommelier, però penso che il sommelier è una figura versatile, quindi molti ristoratori tendono a valorizzare più il sommelier che la figura del direttore di sala, in quanto il sommelier deve avere delle conoscenze base di sala, quindi si può adattare e gioca il suo forte la cultura sul vino. Io quando lavoravo da casa facevo entrambi, sia il direttore che il sommelier, e avevo dei buoni collaboratori che mi davano una mano con il servizio, quindi penso che se un sommelier sia capace di essere versatile e adattare non solo la qualità del vino, la qualità del vino, ma anche un po' di servizio di sala, ne può avere sempre la meglio. Ecco Luca, quali sono le qualità che bisogna avere, bisogna possedere per diventare campioni del mondo? Diamo questo consiglio magari a molti giovani che sono così in linea, ti stanno ascoltando e vogliono sapere. Qual è la dote? La dote è studiare, prepararsi, il naso, cos'è il fiuto, cos'è? Sicuramente tanto sacrificio, tanto impegno e tanto studio. La dote del palato ce l'hai o non ce l'hai, la puoi affinare col tempo, ma la sensibilità al palato ce l'hai dentro, devi aver dentro. Io penso che comunque il sacrificio, l'impegno, l'essere umile e impegnare il suo tempo nella ricerca, nello studio è una cosa fondamentale. Io quello che posso dire ai giovani e ai miei colleghi è che tutti noi possiamo arrivare a dei risultati, e ognuno di noi ha il suo palato, basta valorizzarlo al meglio. E ricordarsi che la grande dote di un grande sommelier, oltre che non vitale, dote psicologiche, è l'essere sensibile non solo di palato, ma anche di testa e di animo, perché il nostro compito oggi è quello di comunicare il vino nel mondo e comunicare quello che un territorio, un vigliaiolo vuole dare, quindi bisogna cercare di emozionare chi ti ascolta tramite chi chiede il vino e le tue parole. Bene, grazie a Luca Gardini, campione del mondo sommelier. Ricordo il numero verde 800240024, ma io voglio chiedere a Luca Cossu appunto se anche lui vede nero per il futuro come questo ristoratore di Padova, oppure ci sono ancora posti per i sommelier nella ristorazione. Ma come diceva, mi allaccio al discorso di Luca Gardini, che forse il sommelier deve essere anche un po' versatile. Quello che succede a me nel mio ristorante, io è vero che sono il titolare, però sono il titolare, il sommelier, il maître e anche il cameriere all'occorrenza, perché insomma questo bisogna fare, la realtà è piccola e quindi ci si presta a fare un po' di tutto. Sì, la crisi c'è, però bisogna anche andarci un po' contro. Bene, sentiamo Luigi della provincia di Bari. Buongiorno Luigi. Buongiorno Davide, buongiorno. Senta, io volevo approfittare per fare una domanda specifica a uno dei tuoi ospiti. Praticamente io sono un piccolo contadino e ho una vigna di quelle a ceppo della provincia di Bari, sa, molto probabilmente l'avrà visto venendo a Noci, di quelle di primitivo. Senta, volevo ecco il parere, che ne pensa del vino prodotto artigianalmente e non corretto con solfiti, e quindi io lo ritengo il vino vero, il vino il migliore. Voi che ne pensate di questo? Bene, Luigi, ma lei come fa a sapere che io sono stato a Noci? Io ho un contatto con lei su Facebook e la seguo sempre con molta attenzione. Grazie Luigi. Allora, rivolgiamo a Carossola il suo interrogativo. È una domanda complessa, qui è un po' una trappola questa domanda. nel senso primitivo, grande vitigno, vini veri o comunque vini fatti in casa hanno un loro significato, un loro senso, non bisogna prescindere però da quelle che sono le tecniche che hanno portato comunque al vino un discorso di qualità, anche di prestigio. E il vino che si usava a fare un tempo forse oggi è in parte superato, perché bisogna anche confrontarsi con il gusto che c'è oggi e comunque soprattutto le richieste del mercato. Bene, sentiamo Massimo da Milano. Buongiorno Massimo. Sì, buongiorno. Senta, io avevo un quesito ed è questo. Io non ho ben capito che mestiere fa il sommelier. Beh, questo è fantastico. Beh, abbiamo fatto questa trasmissione proprio per spiegarlo. Ecco, comunque mi dica. La mia idea è questa. Secondo me il sommelier è quello che assaggia il vino e dice che vino è. Ok. No, bene, scusi, non è un quiz. Fare il sommelier non è un quiz. Uno gli porta un bicchiere e uno dice questo è Negromaro piuttosto che Primitivo. Insomma, così sarebbe molto semplice e molto facilone. No, assolutamente. Tra l'altro è quasi impossibile, mi creda, quasi impossibile riconoscere un vino alla cieca. Sì, si può conoscere, ma molte volte si sbaglia. Però mi dica assolutamente, lei vuole sapere cosa fa il sommelier? La mia domanda era questa: siccome in questo periodo di crisi, però in un certo senso la risposta me l'ha data, non so se è un ristoratore o che cosa, a un certo punto di questi tempi il sommelier dovrebbe adattarsi a fare un po' di tutto, e poi quando uno per dire vuole mangiare un piatto particolare, il sommelier le può consigliare il vino, è così che funziona? Guardi, facciamo una cosa, lei alla fine della trasmissione magari la facciamo richiamare e vediamo se ha capito cos'è il sommelier, quindi cercheremo di spiegarlo, stiamo cercando di spiegarlo e speriamo di riuscirci, perché mi sembra che già siamo a metà trasmissione e ancora non l'abbiamo spiegato. Grazie comunque a Massimo da Milano per il suo intervento. Ricordo numero verde 800 24 0024. Allora Cossu, ma è veramente così complicato sapere cosa fa un sommelier? Ma no, perché? Allora, ci spieghi la funzione. Allora, entra un signore in sala, ecco, facciamo una cosa molto didattica. Sì. Entra un signore in sala, si siede, lei le porta la carta dei vini. A questo punto? A questo punto possiamo consigliare un vino in base a quello che sceglierà come portate. Se troviamo un vino che vada bene per tutti, oppure possiamo fare un servizio al calice per consigliare un vino giusto per ogni piatto. Ecco, allora vino al calice, io vorrei ricordare, siamo a Torino e tantissimi anni fa a Torino è stato inventato il carrello del vino, e allora io voglio ricordare quel personaggio storico secondo me nel mondo del vino e dell'Associazione Italiana Sommelier, che si chiamava Satannino e aveva un ristorante che si chiamava Rendezvous. Ecco, io voglio ricordarlo perché tutti ormai si parla di vino al calice, che è la grande novità, quindi la grande novità dove ci vuole sicuramente la partecipazione del sommelier per consigliare. Ma ecco, Satannino lo aveva inventato e devo dire che bisogna riconoscergli questo fatto, e siamo a Torino, io ben volentieri ricordo questo personaggio che è stato importante nella storia del vino italiano. Campione del mondo. Campione del mondo. Luigi dalla provincia di Monza, buongiorno Luigi. Buongiorno Luca, io ti ascolto... No, non sono Luca, sono Davide io. Davide, scusami. Ti ascolto da quando hai pronunciato una famosa frase che quando è come andare per ristorante è come avere dei vestiti. Puoi avere i vestiti sportivi, ma almeno un vestito di moda devi averlo nell'armadio. E ho ascoltato il tuo consiglio di andare in centro Firenze in un famosissimo ristorante. Sì. Quindi ti parlo di 2 o 3 anni fa. Il problema non è, io non sono un bevitore di vino, però mi piace accompagnare a dei buoni piatti il vino giusto. Allora, si dice crisi del vino, ma ho notato nei ristoranti che di solito vado, no? Sì. Che hanno degli ottimi sommelier, chiamiamoli, non hanno aumentato i prezzi dei piatti, no? Ma hanno quasi raddoppiato, se non triplicato, il prezzo del buon vino. Ebbene, sì, questo discorso dei vini è sicuramente un discorso molto discusso. Abbiamo fatto molte trasmissioni per capire se era il produttore che aveva aumentato negli ultimi anni in maniera così molto forte i vini, oppure se era il ristorante. E rtimane questo problema. La verità, hai ragione tu, i vini sono aumentati rispetto al passato e anche di percentuali è molto interessanti. Forse il vino a bicchiere è venuto proprio per calmierare questo, oltre che il discorso famoso dell'etilometro. Comunque ti ringrazio, grazie Luigi dalla provincia di Monza. Bene, io allora mi inchino alle sommelier donne, perché devo dire che sicuramente dalla mia esperienza, quando in un locale, in un ristorante c'è una donna sommelier, c'è qualcosa di diverso, c'è anche uno spirito diverso, e devo dire che negli ultimi anni veramente le donne sommelier professionalmente sono cresciute, e come. E allora io, per così, per fare un omaggio, ho con noi Emma Salati. Buongiorno Emma. Davide, buongiorno a tutti. Ecco, volevo sapere, ma i primi tempi, ma è difficile, era difficile per una donna stare come sommelier, avere sempre a che fare con gli uomini? Perché la verità è che poi nel ristorante chi sceglie il vino, 99,9% è l'uomo, e quindi voi donne sommelier avete a che fare con gli uomini. Sì, è vero, non è, Davide, così difficile come sembra, anzi forse c'è anche un po' di vantaggio, no? È più gradevole trovare una donna qualche volta, c'è una maggiore grazia, no, non trovo che sia difficile, magari qualche volta c'è un po' di scetticismo, ma è un po' in tutte le professioni questo, ma dopo un po' questo passa, sta passando molto questa cosa, anzi molto spesso vengono richieste donne sommelier. Ah, quindi i ristoranti stessi che lo richiedono? Sì, sì, ma sempre più spesso la ricerca è sulle donne sommelier, sulle donne barman, quindi meno male, la donna che avanza anche nel mondo del vino. Ma tu hai intrapreso questa professione perché amavi il vino o per altri motivi? Sì, sì, no, Davide, assolutamente, solo passione. Penso che sia uno di quei mestieri, di quelle professioni che non può essere fatta se non si ama il vino, se non c'è passione, se non c'è dedizione, conoscenza, ma proprio è molto poi anche comunicazione il vino, no? Quindi avvicina molto le persone diverse, è un mondo molto, sai, molto allineato su tutto, non se ci sono differenze di sesso, età, professione, lavoro, condizione sociale, è un comune denominatore, avvicina tutti. Bene, tu hai toccato un tasto secondo me interessante, che oltre ad avere la cultura del vino bisogna anche saper comunicare, questo è fondamentale in uno sempre col pubblico. Sì, sì, quello è fondamentale, se non hai una capacità comunicativa forse è quasi impossibile fare questo mestiere, ma poi diventa anche una conoscenza proprio della persona che hai davanti, no? Quando sei in un ristorante e devi servire un vino o consigliarlo, c'è anche una certa capacità di analisi, devi sviluppare una capacità di analisi nei confronti, no, di chi hai di fronte, e diventa quindi interessante, molto. Bene, grazie a Emma Salati, a presto. Sentiamo Nicola dalla provincia di Cremona, un radioascoltatore. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sinteticamente io vorrei sollevare un problema, che è questo. Dato che la trasmissione di oggi dovrebbe cercare di identificare anche quelle che sono le mansioni e qual è l'essenza alla fine di un sommelier, le sue capacità e di quello che dovrebbe trasmettere. Ecco, io chiedo questo, mi ricollego all'intervento dell'ascoltatore di Bari, del viticoltore di Bari, che forse ha avuto una risposta, sono quasi trattato da viticoltore da vin de garage. Il problema invece secondo me è più forte, nel senso, un sommelier è in grado di trasmettere veramente quello che il vino sia, quello che il vino non debba essere, o meglio, quello che di antropologico c'è dietro il vino? E qualora non fossi in grado, dato che comunque io ho avuto una pessima esperienza con l'AIS della Lombardia, fino a riconsegnare il tesserino, questo per questo motivo, perché non trovo che la figura del sommelier sia in grado veramente, almeno per come è organizzato oggi l'AIS, di trasmettere quella che sia la vera cultura del vino, per due motivi principalmente. Il primo è perché ignora totalmente quella che è la storia del vino. Prima si parlava di metodi di vinificazione, quando spessissimo anche sommelier professionisti non sanno nulla di vinificazione e non sanno nulla di vinificazione tradizionale, come può essere ad esempio quella Nick Fevri, che comunque sia da dei vini fantastici, io penso a certi vini georgiani, capaci di invecchiare senza affinamenti senza affinamenti in legno o particolari, o senza additivi chimici, anche fino a 50 anni. Bene, e Nicola, dunque... grazie perché ho capito il suo discorso, se no andiamo ci allunghiamo molto, però ho capito, lei vuole arrivare diciamo ai vini naturali, e guarda, ho il cacio sui maccheroni, come si dice, perché ho in linea con noi un sommelier dell'Osteria della Francescana di Modena, Giuseppe Palmieri, e credo per quel poco di esperienza, di conoscenza che ho di questo mondo, che sia oggi sicuramente uno dei più grandi esperti di vini naturali in Italia. Buongiorno Giuseppe Palmieri. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Hai sentito questo radioascoltatore, giustamente, che lui ha fatto le sue rimostranze, ha messo sul banco degli imputati l'AIS Lombardia. Io mi spiace, non ho qui nessuno dell'AIS Lombardia, però se qualcuno dell'AIS Lombardia vuole intervenire, lo faccio, gli do voce ben volentieri. È un giudizio critico, secondo me, che anche tutti i sommelier devono prendere, quindi non rigettare, come posso dire, in maniera violenta o d'altro. Secondo me se ne può discutere, perché forse anche qualche critica di questo radioascoltatore è basata sulla realtà, perché non tutti, ovviamente, evidenti, i sommelier sono preparatissimi, non tutti sono aperti ai nuovi vini, alle nuove tendenze e anche a capire di vini che generalmente magari non aprono il loro ristorante. Non so cosa ne pensi, Giuseppe. Allora, intanto la premessa è che la critica è fondamentale, perché è uno strumento, insomma, di crescita indispensabile. In secondo luogo, io prendo volentieri la patata calda per le mani, nonostante io, insomma, non sono un membro AIS, però vorrei, a prescindere, insomma, tutelare la categoria. Tu sei il suggeritore di vino, come ti definisci? Suggeritore di vino? Sono un autonomo, un indipendente, perché insomma coltivo in maniera molto molto personale, molto molto e in punta di piedi quella che è la mia grande passione, che il vino, la tavola, ma la sala a 360 gradi, che è il vero grande risultato a mio parere oggi, soprattutto per la cantina, perché è fondamentale saper leggere le situazioni. Ma torniamo alle osservazioni molto interessanti dell'ascoltatore che è intervenuto prima. Sì, è fuori discussione, insomma, che in qualsiasi ambiente le categorie sono sempre, insomma, costrette e condannate a una crescita, ma insomma credo che sia fisiologico se si vuole migliorare continuamente. Però poi bisogna fare anche attenzione per quello che riguarda al sommelier, che lo sommelier non abbia poi un atteggiamento autoreferenziale, che il sommelier non diventi il dotto che poi vuole dare delle lezioni tecniche a tavola ad un ospite, che è un ospite molto consapevole, è un ospite curioso, un ospite che ha voglia di innamorarsi di un prodotto nuovo, di un fenomeno nuovo, che sia il vino, che sia un distillato, che sia una grande birra, però secondo me ha soprattutto voglia di stabilire un rapporto. E quindi il sommelier oggi più che mai deve avere l'umiltà di mettersi sullo stesso piano dell'interlocutore. Io stasera incontrerò sicuramente un grandissimo appassionato di Bordeaux e ho il dovere di essere all'altezza, però incontrerò molto probabilmente anche un neofita che ha una grande passione per il Prosecco come per il nostro grandissimo Lambrusco, e la mia attitudine e il rapporto deve essere lo stesso. Ecco perché io prendo l'osservazione dell'ascoltatore come un'osservazione assolutamente da tenere in conto. Però attenzione, che c'è una nuova categoria straordinariamente preparata di miei colleghi, molto giovani, tante donne, che ha il merito di aver liberato il sommelier di quella plomba, l'Antonio Albanese. No? C'è gente innamorata, appassionata, che si avvicina all'ospite, che lo aiuta e che è anche pronta ad accettare una un'informazione nuova, perché i sommelier sono comunque degli working in progress, come si dice, working in progress sempre. Bene, grazie a Giuseppe Palmieri, grazie della Francescana di Modena. Alfonso da Rimini, buongiorno Alfonso, 2 minuti per lei. Buongiorno a tutti, signor Davide, grazie di avermi chiamato. Io vi chiamo dalla rotonda sul mare di Rimini, dal ristorante Nettuno. Beato lei che è al mare oggi. Sì, è bellissimo, oggi è una giornata stupenda. Ascolti, signor Davide, io me ne porto via tanto tempo, io sono in questo mestiere ormai quasi da 30 anni. Bisogna fare assistenza al cliente, bisogna capire chi si ha davanti, curare il portafoglio del cliente, che è importantissimo. I grandi vini in Italia noi non ce l'abbiamo da oggi, da ieri, ce l'abbiamo ormai da 100 anni e passa. Un po' meno di 100 anni, un po' meno, Alfonso. Sì, ma i grandi Brunelli, i grandi Sassicaia, ci sono, no, in Italia. Non 100 anni fa non c'erano, non c'era nessun grande, ecco, vino. siamo vicini ai 100 anni, signor Paolini, se non sono 100 saranno 80, però voglio dire, ecco, la questione di accompagnare il cliente deve passare sempre attraverso la conoscenza del cliente, e questo è importantissimo. Noi più conosciamo il cliente e più il cliente si apre nei nostri confronti. Dal momento che il cliente si apre, poi dopo tu lo puoi accompagnare. Guardi, noi facciamo ancora una grande fatica in Italia a distinguere la posata dell'antipasto da quella del secondo. Ecco, quindi noi dobbiamo stare insieme, cioè non imporre niente, ma fargli capire che la nostra è cultura, e questa bella cultura noi la vogliamo diffondere insieme Bene. Alle nostre massaie. Che differenza passa, Mauro, tra appassionato e professionista? Ma, tanto buongiorno a tutti. La questione fondamentale è che non è il primo lavoro quello del sommelier per un sommelier appassionato. In realtà la forza della nostra associazione è proprio questa, che è in grado di mettere in campo competenze e persone che hanno competenze diverse in molti campi. Io faccio come mestiere principale l'editore, infatti sono qua a Torino per ragioni professionali, ma essendo sempre stato appassionato al vino e alla sua cultura, mi sono avvicinato all'AIS. Quindi lei capisce che il sommelier appassionato partecipa evidentemente alla vita sociale dell'associazione, ma dà il proprio contributo nel proprio campo di competenza. Io per esempio ho lo straordinario privilegio di far parte della redazione di 2000 Vini, perché il mio mestiere è scrivere e pubblicare libri, evidentemente. E quindi questo faccio, per esempio. Io credo che proprio per la diffusione della cultura del vino sia anche fondamentale che esistano nell'associazione sommelier che non fanno soltanto il lavoro in sala, ma che sono in grado di portare le proprie competenze di vario tipo, culturali, economiche, insomma di vario genere, all'interno dell'associazione. Questo, fra l'altro, permette di definire meglio il ruolo del sommelier. Forse ci siamo girati un po' intorno finora, ma il sommelier fa tante cose. Anzitutto deve fare, come sta cercando di fare la nostra associazione, cultura del vino, perché raccontare il vino, raccontarne la storia, raccontarne le tecniche, raccontarne il radicamento territoriale è fondamentale. È fondamentale poi per i consumatori di domani, perché se i consumatori di domani saranno consapevoli della forza, in particolare del vino italiano, saranno in grado di scegliere un vino e di interloquire con il sommelier in sala. Il sommelier fa tante altre cose, immaginate nella grande distribuzione quali competenze di budgeting deve avere per l'acquisto del vino. E poi un sommelier, in questo caso parlo di me, deve anche essere in grado di scrivere, di raccontarlo. Bene, grazie. Abbiamo sentito questo aspetto particolare che era sfuggito in realtà, ma avevamo un sommelier appassionato proprio per questo. Beh, abbiamo da Roma un bravissimo sommelier di un importantissimo ristorante che è la Pergola dell'Hotel Lilton di Roma, dove veramente la carta dei vini, la cantina è straordinaria, dove io più volte ho visto stappare delle bottiglie da sogno. Buongiorno Marco Reitano. Ciao Davide, buongiorno. Marco, ma tu stappi solamente bottiglie da sogno? No, assolutamente no, perché bottiglie da sogno non sono solamente i grandi vini del mondo, nelle grandi annate, i grandi vini rari, ma sono anche i vini dei piccoli produttori, di chi fatica tutti i giorni per dare il meglio da questa grande terra del vino, che sia la terra italiana che la terra del mondo. Ecco, aspetta un secondo, perché vedo che c'è un radioascoltatore, secondo me, che ha qualcosa da chiedere in proposito. Buongiorno a Rudy da Milano, non è Ruby, no, non ho l'onore di avere Ruby in linea, no, così, sono Rudy. Rudy, buongiorno. Qua, là, lo nascondiamo con un po' di come si chiama? No, Rudy, mi dica la sua domanda, prego. Pronto? Sì, pronto, mi dica... Buongiorno. No, niente, dovrò innanzitutto chiarire di che tipo di ristorazione stiamo parlando, perché in Italia il livello di ristoratori che offrono vino è veramente basso. Offrono poi bottiglie da 4 euro e le fanno pagare 40, 50. Cioè c'è un'ignoranza da parte dei ristoratori italiani che è patologica. E poi andiamo come il suo ospite di prima alla via Modena, trattoria francescana, cose del genere. Osteria. Prego? Osteria della Francescana. Sì, osteria, scusi. Sì. Guarda, è la prima volta che intervengo. Io la seguo da anni, molti anni, anche quando ero insieme con un suo collega che oggi fa a Radio 24, cura la musica sinfonica. Per la prima volta che intervengo, ma il vino veramente l'abbiamo riscoperto da una decina d'anni, 20 anni. però non c'è di pari passo l'interesse di quelli che dovrebbero essere i promotori del vino in Italia, che sono i ristoratori. È una speculazione, non parliamo poi del mangiare, ormai siamo a livelli da mense. Bene, voglio dire, ma è possibile che questi ristoratori non possono essere, cioè andare a scuola, che veramente prendersi dei sommelier per imparare loro come si tratta il vino? È una buffonata. Rudy, abbiamo sentito la sua jacuzzi, speriamo che magari non ho più tempo per far intervenire altri a difesa, però magari c'è spazio per le prossime trasmissioni. Ma visto che abbiamo parlato, siamo al Salone del Vino, si parla di ricette, si parla di libri di gastronomia, e allora proprio ieri l'altro qui è stato presentato un libro da Monica Brenna, che è qui con me, che è La cucina senza tempo. Allora Monica, ti volevo chiedere, tu hai presentato il libro con la coincidenza del tuo primo libro col salone, il Salone del Libro, ma cosa significa La cucina senza tempo? Cioè di chi non ha tempo per cucinare? Certo Davide, la cucina senza tempo è quella che noi donne moderne ci siamo inventate adesso. Ci piace mangiare bene, ci piace sederci a tavola, essere comunque sempre gli angeli della casa, però abbiamo la vita sempre in corsa, mille cose, il lavoro, la famiglia, i figli, e quindi in poco tempo ci siamo reinventate. Usiamo tecnologia moderna, facciamo gli acquisti mirati e intelligenti, e quindi questa nuova generazione di cuoche moderne parla della cucina senza tempo. Bene, grazie a Monica Brenna, purtroppo non ho molto tempo per così dilungarmi su questo libro, ma voglio fare la chiusura con Marco Reitano, velocissima. Marco, volevo chiederti questo, tu consigli ai giovani, a molti giovani, di intraprendere oggi la professione di sommelier? Io di intraprendere questa professione, di prenderla in maniera seria nel mondo dell'ospitalità e della ristorazione. È pur vero poi che ci sono i sommelier appassionati, come diceva prima l'altro signore, ma la nostra poi alla fine è comunque una vera e propria professione e dà tantissime soddisfazioni. Bene, io ringrazio Marco Reitano, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Mi spiace Massimo dalla provincia di Firenze e Antonio dalla provincia di Latina di non poterli far intervenire, perché siamo veramente in chiusura di questa trasmissione dal Salone del Libro di Torino. Mi veniva da dire Salone del Vino, visto che ormai qui c'è anche il Salone del Vino, ma oggi abbiamo parlato appunto di vino, di professione, di sommelier. Io vi do appuntamento domani con la pillola delle 11.05, 23.05 dal lunedì al venerdì, e ovviamente alla prossima settimana, e vi auguro una buona settimana a tutti e un buon Salone del Libro. A presto.